fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, buonasera di nuovo a tutti, venerdì 1 giugno, ancora tanti sposi, tanti festeggiati da far salutare, da far stare insieme a noi per qualche minuto. È il turno di un uomo, di un futuro sposo che viene dalle ridenti montagne del nord, giusto? Esattamente. Benvenuto, buonasera. Voglio salutare la mia squadra che qui stasera mi ha portato dal primo all'ultimo, dal più giovane al più vecchio, da chi si fa prete, addirittura, a chi invece si è già sposato. Mamma, che gruppo misto, proprio mistissimo. Un gruppo misto, una cosa incredibile, veramente. Cioè, quindi c'è un futuro prete e uno già sposato. Sì, almeno due o tre già sposati. Bellissimo. Due o tre figli sicuramente, altri che sono in procinto di, e niente, li saluto tutti, mi hanno fatto una grande sorpresa stasera, mi aspettavo una semplice vigliata, invece va. È andata un po' più in alto, si è alzato un po' di più il livello. Decisamente. Ma però aspetta, perché hai detto che alcuni sono già sposati, c'è qualcuno che a breve si sposerà invece, che dici? Eh sì, io decisamente, fine luglio in progetto, è già in carico il matrimonio, c'è ancora tanto da organizzare, però manca... poco più di un mesetto, quindi bisogna un attimino cambiare marcia e accelerare. Il tuo nome? Andrea, da dove vieni? Dicevo che vieni dalle montagne del nord, quindi da un altro bellissimo paese che tra l'altro amiamo molto, ci vengono a trovare spesso da quelle zone. E dai, raccontaci un po' del tuo matrimonio, quando sarà, con chi sarà soprattutto? Allora, sarà con Federica, sarà verso la fine di luglio, vedi che i miei compagni come mi accolgono. Ti vogliono bene, c'è sentimento, guarda quanti... vedi che adesso, tanto amore. Oltre a tutto questo amore che mi offre un compagno di squadra, c'è tutto l'amore che mi offre Federica, la mia compagna, e in questa radio la voglio salutare, che momentaneamente è un addio al nubilato. Quindi in contemporanea siete? Contemporanea, molto bene. Quasi fosse l'ultima giornata della Serie A in cui le partite si giocano insieme. Decisamente, cioè vince chi arriva più in alto e... Niente, non ti so dire altro. Vabbè, quello è abbastanza. Parliamo un attimo di calcetto, perché dicevi che ti ha accompagnato la squadra con cui giochi. Precisamente. È ancora il lunedì sera, il giorno del calcetto, o è cambiato? L'allenamento è sempre il lunedì sera, la partita è il venerdì sera. Però il lunedì calcetto è sacro, e poi pizza e birra. Dipende, ma panino. Lunedì allenamento e birra, il venerdì è pizza e birra. Pizza e birra, i grandi classici. E poi dicono che gli uomini non sono scontati. E invece sì, sono assolutamente scontatissimi. Qualcosa, ma lui non è mio compagno di squadra, non so chi cazzo sia. Vabbè, è un intruso, poi ne capiremo qualcosa di più. E no, quello che volevo capire è il tuo ruolo, ad esempio, dove ti posizioni? Sono laterale, ma poca roba, tanta corsa, ma sostanza è poca. Diciamo che ce la metti del tuo. Sì, assolutamente. Dai tutto quello che... Ma calcetto, scusa, 5, 7, 11? 5. 5, quindi chiuso. Vi proteggete anche dagli agenti atmosferici, dalle intemperie. Sì. E da quanto è attiva la squadra, chiamiamola così? Più o meno quasi, penso, più di 10 anni sicuramente. Diciamo la rosa è più o meno cambiata, però 10 anni, come si chiama? Aldeno Calcio 5. Aldeno Calcio 5, quindi salutiamo tutti i ragazzi che sono qui fuori, anche magari tutti quelli che si aggiungeranno nei prossimi anni, perché sicuramente... Assolutamente, ci sarà sicuramente un ricambio generazionale. Sarà così, come giusto che sia, ma è professionista, non professionista? No, non professionista. Amatoriale. No, non amatoriale. Ok. Però una serie D, insomma. Una serie. Serie. Va bene. E quanta tattica c'è nel calcio a 5 e quanto istinto invece, secondo te? Un po' un 50-50 direi. C'è comunque bisogno di prepararsi. Sì, qualche calcio piazzato sicuramente serve al tiro di ottenere qualche gol, però parliamo sempre di tanti gol ogni partita, perciò conta quanto la tattica, quanto l'istinto e la voglia di portare la partita. E poi pochissimi, cioè non è che si può portare la palla più di tanto, pochissimi tocchi, perché deve girare. Deve girare e viaggiare molto, al contrario del calcio 11, in cui può essere che un giocatore possa fare la differenza e portarsela in giro. Conta più la squadra. Sì, assolutamente sì, quindi bene, e si vede la qualità della squadra, la stiamo vedendo noi. Vediamola. Voi non potete ammirarla in questo momento, noi la stiamo vedendo, è assolutamente di altissimo livello. Penso ti stiano reclamando per andare a cantare, Quindi io ti faccio salutare come giusto che sia e poi ti lascio saluto libero. Saluto l'Aldeno Calcio 5 e il convento, vi ringrazio per questa opportunità e buona serata. Grazie mille Andrea, buona serata e buon divertimento.